speciale italiana Claudio Augusta, questa iniziativa. Siamo una biblioteca con la sede di Amendola 5, cioè a Bolzano. Organizziamo praticamente ogni settimana, anche due volte a settimana, degli incontri con l'autore e con l'attrice. Questo nasce da un'idea, da una proposta che c'era stata fatta alcune settimane fa da Maurizio Ferrani, che è qui con noi questa sera, per far conoscere e promuovere l'attività di queste associazioni che sono importantissime e preziose sul nostro territorio a livello non solo provinciale ma appunto anche regionale. Ringrazio tantissimo anche le due autrici che sono qui con noi, Milena Di Camillo e la signora Loretta Rocchetti. Un libro è un libro chiaramente importante, interessante, ma anche molto toccante, un'esperienza diretta e vissuta che rientra anche nei nostri interessi, quella che può essere il filone dell'autobiografia, della denuncia, del far conoscere delle tematiche sempre nuove al nostro pubblico. Quindi, con particolare interesse e delicatezza, abbiamo accolto questo invito. Siamo contenti dell'attività che viene svolta da queste due associazioni. Sono anche contenta di avere con noi qui il dottor Bernardo, noto a tutti e conosciuto e apprezzato per la sua grande attività. La biblioteca ha un piccolo ruolo, ma è quello sempre di diffondere la conoscenza, di ampliare la sensibilità, di creare dei nuovi percorsi di conoscenza. Quindi forse è anche utile ogni tanto così poter promuovere anche un po' la biblioteca, perché attraverso la conoscenza si possono anche superare dei limiti, delle paure, e questa sera forse la paura è anche un tema, un tabù che si può vincere. Io vi ringrazio, cedo la parola a tutti voi e grazie di essere così numerosi. Buona serata. Bene, io ovviamente ringrazio Valeria per questa introduzione, è bello essere qui insieme questa sera. Ringrazio gli amici del Papavero di avermi chiesto di fare un po' di introdurre, non dirò molte cose perché evidentemente sono altri quelli che devono parlare, siete venuti a sentire loro. È una storia, è un libro, quello di cui parliamo questa sera, che va letto, va meditato, va direi digerito, perché come al solito tutte le volte che parliamo, che sento parlare di queste cose, riaffiora questo problema delle cose non dette, delle cose che non vogliamo sapere, no? Delle cose di cui è meglio non parlare, dei problemi che vengono accantonati. Di tabù antichi e moderni in una società come la nostra, che ha messo il fine vita da una parte, gli ha tirato davanti un paravento e si fa finta che non esista. Bene, mi sembra, non so, forse sono eccessivamente ottimista, che in questi ultimi anni, proprio grazie al lavoro di associazioni come quella di Trento e del Papavero a Bolzano, un pochino questa cosa stia cambiando. Non dico tanto, perché è difficile smantellare questi muri, ma un pochino sta cambiando, e anche libri come questo, che raccontano un'esperienza, che raccontano una realtà, che raccontano un percorso, sono importanti. E quindi io credo che sia bello essere qui insieme oggi per sentirne parlare. E cominciamo subito, guardate, io ho già finito, io chiederei di parlare per primo a Massimo Bernardo e poi daremo la parola alle due autrici che ci entreranno più nel vivo di questa storia, di quello che ci hanno voluto raccontare. Massimo. Grazie Maurizio, buonasera a tutti. Io questa sera sono particolarmente felice perché è un'occasione, un nuovo momento di incontro con Loretta e con Milena. Con Loretta soprattutto nell'ambito delle cure palliative abbiamo iniziato un percorso tanti anni fa che cerca di avvicinare la provincia di Trento e quella di Bolzano su un ambito così delicato, così difficile come quello, come ha detto Maurizio, di avere il coraggio di guardare in faccia il fine vita e di affrontarlo con il dovuto coraggio. Coraggio che ha avuto sicuramente Barbara nel proporci la sua testimonianza raccolta appunto da Lorenza e da Milena in maniera straordinaria, ed è una testimonianza importantissima perché è fatta da un medico che, come bisogna dire in queste circostanze, è passato dall'altra parte e quindi, come viene detto nel libro, riesce a leggere questa vicenda attraverso due lenti o come un'immagine riflessa nello specchio. Da un lato c'è la vicenda del paziente, dall'altro c'è l'analisi del medico che si rende conto del tipo di medicina che abbiamo costruito soprattutto in questi ultimi anni. C'è una sofferenza, che è quella di Barbara, che non inizia nel fine vita, ma inizia molto più precocemente, nel momento della diagnosi, perché i problemi del paziente non iniziano alla fine, ma la storia è molto lunga e appunto si varca il confine tra la salute e la malattia nel momento in cui ti viene consegnata una diagnosi di una malattia che molto probabilmente sarà una malattia inguaribile. E poi da lì inizia un percorso fatto di attese, di esami, Barbara le chiama sentenze, di speranze deluse, delle recidive, del confronto con terapie molto pesanti, cercare di trovare qual è il limite oltre il quale sarebbe bene non spingersi, insomma una tempesta nella quale, una centrifuga nella quale il paziente si trova precipitato. Ci sarebbero mille temi sui quali discutere, mi viene da pensare al dolore, il dolore che Barbara, medico, è costretta a sperimentare, a provare e a protestare perché non riceve una terapia adeguata. C'è la paura nell'utilizzo degli oppiacei, della morfina, per tutti i pregiudizi che questo farmaco si porta dietro. Temi veramente importanti, temi delicati sui quali credo che in questi anni sia parlato e ci sia da parlare ancora. E poi c'è la Barbara medico, che vede appunto, come dicevo, quale tipo di medicina abbiamo costruito in questi anni. Una medicina molto più attenta alla malattia, molto più portata alla ricerca della diagnosi, delle cause, dell'ennesimo trattamento da proporre al paziente. Una medicina che si è allontanata sempre di più dalla persona. E l'urlo che esce da questo libro è sostanzialmente quello di una sensazione di non essere stata presentata da nessuno. Sono una paziente che è costretta a percorrere questa via di sofferenza insieme alla mia famiglia, ma senza qualcuno che abbia deciso o che abbia preso in qualche modo per mano questa persona e l'abbia aiutata a fare delle scelte, l'abbia aiutata a condividere alcuni momenti determinanti di questa vicenda. Tutto poi si conclude con l'incontro con i colleghi delle cure palliative e qui c'è la scoperta da parte di Barbara di cosa significa prendersi cura di una persona. Fino ad allora era stata curata, curare oggi è sinonimo di guarire o di prolungare la vita il più possibile. Prendersi cura è qualcosa di più ampio, vuol dire prestare attenzione ai desideri del paziente, alle sue aspettative, alla sua volontà e quindi cercare insieme di condividere, cercare insieme di trovare una strada che sia rispettosa di ciò che il paziente si aspetta e di ciò che il paziente vuole. E credo che questo sia la fine, no? Il messaggio più importante che esce da questo libro, e cioè cerchiamo, almeno noi medici, di riflettere sul nostro operato, cerchiamo di fare in modo di riportare l'attenzione dalla malattia alla persona e di lavorare nel rispetto di chi soffre. E vorrei fermarmi qui per dare la parola a voi. Questo è il libro, titolo non ha bisogno di commenti, Riserva di prognosi. Io vorrei cominciare chiedendo a Milena Di Camillo come avviene l'incontro con Barbara. Sì, volentieri. Intanto buonasera e grazie a tutti, grazie al papavero soprattutto, e grazie a Maurizio, al collega, a Bernardo, insomma, grazie a tutti voi, non è un grazie rituale mio, credetemi, Loretta e io facciamo parte, noi abbiamo parlato di due associazioni, diciamo qual è la seconda associazione, facciamo parte, così come faceva parte Barbara, della Fondazione Trentino, Fondazione Hospice Trentino Onlus di Trento. Allora, come nasce il libro? Barbara, parliamo di Barbara Soini, oncologa all'ospedale Santa Chiara di Trento. Nel 2008 lei aveva 44 anni, sposata con due figli in età adolescenziale e poco più, scopre di avere una metastasi da cancro al colon. La diagnosi è pesante, la prognosi per quel tipo di diagnosi normalmente non autorizza un'aspettativa di vita oltre un anno e mezzo. In realtà Barbara vivrà quasi 5 anni. Lo dico all'inizio questo per farvi capire quanto sia importante la sua testimonianza anche in questo senso. Riserva di prognosi, non a caso non abbiamo scritto prognosi riservata, è proprio riserva di prognosi per dire che non c'è una prognosi certa, anche se naturalmente poi la letteratura medica eccetera eccetera, però è una riserva di prognosi per molti contenuti di questa storia. E il sottotitolo del libro, mi piace citarlo, è "Un oncologa si ammala di cancro e interroga la sanità", quindi non è un libro contro qualcuno o contro qualcosa, è un libro per. Detto questo, allora torniamo a Barbara, scopre di avere questa malattia impegnativa, è uno shock per lei e la sua famiglia, però reagisce. Barbara era una combattente, veramente una combattente, una donna molto determinata, intelligente e spiritosa anche, e poi vi dirò perché, e soprattutto un medico appassionato della propria professione, proprio una passione autentica. Al punto che lei ha fatto questo atto di generosità decidendo di lasciare la testimonianza, che non è stata una cosa facile, e fino all'ultimo ha voluto essere medico, quindi questo va detto, insomma. Allora, Barbara, appunto, l'ha detto prima il dottor Bernardo, da medico curante, oncologa, si ritrova nel ruolo di paziente, percorre tutta la strada che ha già indicato il dottor Bernardo. Dopo comincia a prendere qualche appunto, una sorta di qualche frasetta di diario qua e là, però insomma, si rende conto che questa esperienza che sta vivendo, più vive la condizione di paziente e più rivede una serie di situazioni che prima aveva registrato da oncologa, da medico curante. Sono le stesse situazioni, non sono situazioni che non conosce. Quello che non conosce è come le vive il paziente, le sta conoscendo adesso da paziente. Si rende conto che questa esperienza potrebbe diventare uno strumento importante di lavoro, di studio per i colleghi, per gli operatori sanitari in generale, ma anche per utenti, familiari, insomma tutte le persone che si trovino a vivere direttamente o indirettamente situazioni di questo tipo. Barbara all'epoca, io ancora non la conoscevo, conosceva invece Loretta Rocchetti, medico di famiglia, oggi in pensione, medico anche palliativista, impegnata sui temi etici, tra le altre cose lei è presidente del comitato di bioetica dell'Università di Trento. Insieme stanno organizzando alcune iniziative in campo oncologico e per le cure palliative, ma insomma studiano, pensano all'idea di una testimonianza e di ricavarne un libro. Loretta dà la propria disponibilità ad aiutare Barbara e poi lei conosceva me e mi ha chiesto di, ci voleva qualcuno che scrivesse il libro, insomma. Io sono giornalista in pensione anch'io, ma insomma, e quindi mi è stato chiesto di scrivere il libro, così è stato. Allora, abbiamo incontrato Barbara nell'ultimo anno e mezzo della sua vita, incontrandola ogni volta che era possibile, ogni volta che Barbara si sentiva, incontrandola dove capitava, a casa sua, a casa di Loretta, al ristorante, perché ogni tanto non avevamo voglia di parlare di tristezza, allora andavamo al ristorante. Mi piace ricordare, Massimo giustamente ha parlato di dolore, sofferenza eccetera, però a me piace molto ricordare il sorriso di Barbara e anche La sua capacità di essere autoironica, per esempio, tutte queste cose si trovano nel libro. E per cui ogni tanto dicevo, no, adesso basta, andiamo, basta con questi discorsi, andiamo di qua, di là. Insomma, abbiamo anche riso, sorriso insieme, ci siamo molto emozionate, ci siamo anche molto legate in un rapporto particolare. Perché particolare? Perché la situazione era particolare, no? Ti trovi in una situazione come questa, che io chiamo nell'introduzione situazione estrema, perché la prossimità della morte è una situazione estrema, e di fronte a questa situazione uno reagisce, cioè, in modo diverso. C'è chi scappa, c'è chi si mette addosso una maschera un po' ipocrita di circostanza, e c'è chi invece decide di andarci dentro nella situazione, guardarla in faccia. È quello che Barbara ci ha chiesto di fare ed è quello che noi abbiamo fatto con lei. In questa situazione siamo diventate amiche di un'amicizia che assolutamente non si cancellerà, insomma. Il libro è nato così. Se credi, vado avanti raccontando cosa c'è nel libro. Avevi qualche domanda da fare? Io volevo sapere, poi dopo vai avanti e ci racconti. La Loretta, ecco, ne ha parlato sia Massimo che Milena, però questa cosa, il medico, e a questo punto parlo con, che si trova in questa situazione particolare, il medico oncologo, quindi che, al quale nulla si nasconde, al quale che sa forse le cose quasi prima che gliele dicano, come reagisce Barbara in questo momento, quando il suo essere medico quanto influisce sulla sua, sulle sue scelte e sulle sue... Allora, io devo parlare di Barbara perché io ne ho conosciuti diversi colleghi che purtroppo sono passati per l'esperienza del tumore, magari sono anche morti per questa malattia, e non tutti hanno reagito allo stesso modo. Devo dire che Barbara ha avuto una reazione particolare. Barbara ha avuto una reazione particolare, quindi non è come un medico reagisce di fronte a questo, ma come Barbara ha reagito di fronte a questo. Allora, all'inizio sicuramente c'è stata la disperazione del trovarsi in una situazione... Ecco, lei ricorda a un certo punto, parlando della comunicazione della verità, lei ha detto: quando io parlavo nella prima visita con i miei pazienti, mi accorgevo che una volta che avevo detto la parola tumore, magari loro anche già lo pensavano, ma la prima volta che gli davo la diagnosi, era come se andassero in una specie di nebbia, non mi ascoltavano più poi. Cioè, io dicevo cosa c'è da fare, la diagnosi, le terapie, tutto, però capivo, è come se fossero in un'altra realtà. Adesso, aggiunge, capisco perché è così che succede, ti senti scaraventato in un'altra realtà. E questa è stata l'esperienza di Barbara. Però, a parte dopo il... così la sorpresa dolorosa iniziale, lei ha preso in mano la situazione, e alcune cose devo dire. Una, lei si è comportata con se stessa come aveva sempre fatto con i suoi pazienti, cioè dando, ad esempio, lei ha fatto tutte le chemioterapie che avrebbe, cioè che faceva per i suoi pazienti. Lei, con questa seconda lente che la malattia gli ha fornito, dice diverse volte: adesso capisco perché. Per esempio, quando a lei è stato detto che avrebbe dovuto prendere la morfina in modo continuo, non nel momento dopo l'intervento del dolore, lei ha detto: io l'ho sempre prescritta e non capivo perché i miei pazienti resistevano, adesso lo capisco, sto resistendo anch'io. E dice: adesso capisco perché, non capiva il perché, dice: adesso resisto anch'io. E poi il passaggio bello è stato che lei dice: quando mia figlia mi ha detto: ma mamma, non è che si può aspettare, proprio la morfina devi prendere, insomma, non è... Dice: io ho detto a lei le stesse cose che dicevo ai miei pazienti e le ho dette così anche a me, e mi sono tranquillizzata. Certo che Barbara non era una paziente qualsiasi, perché lei sapeva, essendo medico-oncologo, tra l'altro fortuna della sorte, lei curava proprio i tumori intestinali, che è questo il tumore del quale poi lei era esperta in questo. E quindi lei sapeva tutto, ma sapeva anche le terapie, cosa facevano, i dosaggi e tutto, per cui lei ha potuto in un certo senso contrattare le terapie anche con i colleghi che gliele prescrivevano, riuscendo ad arrivare a una modifica dei dosaggi, una modifica dei protocolli, per esempio, e questo gli ha permesso di, in un certo senso, di essere quasi curata meglio, perché è stata una cura personalizzata. E lei ha affermato, dice: sì, io lo so che ci devono essere i protocolli, perché questi danno la garanzia a un paziente di essere curato come il protocollo, non è che uno se lo inventa, è un protocollo sperimentale, tu sai che questa è la cura. Però lei dice: bisognerebbe non adattare il paziente ai protocolli, ma adattare i protocolli al paziente. Certo che per fare questo ci vuole molto tempo, molto ascolto, molta pazienza, e questo non si sa se c'è. Una cosa bella rispetto a questo, una collega amica, perché qui sono entrati nella storia anche gli amici colleghi, una collega amica, lei dice: di fronte all'esperienza di Barbara io ho visto come, cioè con lei abbiamo adattato i protocolli, anche perché lei sapeva di cosa parlava, e ho capito che è così che bisognerebbe fare. Perché l'abbiamo potuto fare con Barbara? Perché l'abbiamo ascoltata più di quanto di solito ascoltiamo gli altri pazienti, forse anche perché erano facilitati sapendo. E questo ha indotto una riflessione nel collegio oncologi, dicendo: così è successo con Barbara, perché questo non può succedere anche con altri? Poi un'altra cosa molto bella, molto importante: sapendo tutto, Barbara ha preparato la sua famiglia all'evento, e dimostrando tra l'altro che non esiste, non è debolezza farsi aiutare. Tante volte noi diciamo ai pazienti, penso che avrai anche tu esperienza, Massimo, introduciamo un'altra persona, sentiamo uno psicologo quando vediamo. No, io non ne ho, cioè è difficile accettare di essere aiutati. Lei non l'ha trovato. Lei, che era una donna estremamente forte, lei ha accettato di essere aiutata, anzi ha scelto lei di essere aiutata, non solo, ma in tempi successivi a ciascuno per nel momento adatto per la persona adatta, ha fatto aiutare anche la famiglia. Lei è stata aiutata da uno psicologo, anche il marito e anche i figli a loro volta. Quindi questo è un altro messaggio di una persona che sa e che, pur essendo forte, si fa aiutare. Cioè, mi piace rispetto a questo leggere una frase che non, che forse Massimo pensa tutti dovrebbero arrivare così. Dunque, dove qua? Adesso non la trovo. Allora, intanto che tu la cerco, sì, senti. Ecco. Bene, tu dicevi prima libro. Volevo aggiungere una cosa a questa cosa che ha detto Loretta, perché è tutto naturalmente vero quello che ha detto Loretta, ma a me piace ricordare anche il tratto umano di Barbara. Cioè, Barbara è stata un medico tutto d'un pezzo, coerente, eccetera, eccetera, ma quando è diventata paziente ha conosciuto anche la propria dimensione umana, quindi anche con quelle che apparentemente sembravano incongruenze, insomma, no? Per cui, per esempio, quando ha cominciato a sentire dei sintomi, lei ha respinto un po' questa cosa, ha spostato in avanti il momento della verifica. Per gli stessi sintomi, lei stessa ci ha detto, lei avrebbe consigliato al paziente di fare subito un attacco, un'ecografia, eccetera, eccetera. Però lei, qui è il suo tratto umano che abbiamo amato molto e che continuiamo ad amare, lei ha avuto paura esattamente come tutti noi. Ancora, ha già accennato anche Loretta, a questo rapporto con la morfina. Lei ha prescriveva la morfina ai suoi pazienti perché quello bisognava fare, però lei ha avuto le resistenze nei confronti della morfina, altrettanto con le cure palliative. La prima volta che le sono state proposte le cure palliative, lei ha detto di no. la seconda volta le ha accettate. Allora, perché cito queste cose? Perché Barbara è stata una persona, è una persona dentro di noi speciale, però non mi piace descriverla come Wonder Woman. È una persona che ha avuto un coraggio e una generosità, l'ho detto prima, è una coerenza etica e deontologica fino alla fine, ma mi piace anche ricordarla per la tenerezza dell'essere umano, insomma, che ci ha trasmesso. Volevo dire questo perché altrimenti le faremmo torto, insomma, ecco. Allora, racconto cosa c'è nel... Hai trovato la frase? Sì, sì. Ed è una frase che lei ha scritto, ha detto quando eravamo verso la fine. Dice: nei giorni passati è successa una cosa importante. Con l'ausilio della psicologa ho affrontato i miei familiari, mio marito, i miei figli, mia mamma, mio fratello. Ho spiegato loro che la mia situazione è diventata più instabile, più incerta, che tutto potrebbe precipitare da un momento all'altro. Sì, volevo dire anch'io che Barbara non è stata un supereroe. Lei ha avuto anche paura e l'ha descritta, tutte le sue paure che sono arrivate quando lei dice anche il dolore che è difficile da passare, che non, e sì, quindi il collegamento tra progressione e fine. Adesso arriva la paura ed elenca tutta una serie di paure che... Però l'importante è che lei non si è crogiolata in queste paure, ecco, questo è stato il... E né ha accettato di diventare ostaggio della malattia, questo è il concetto importante. Allora mi piace citare, a proposito del tratto umano poi, anche non solo di Barbara ma anche di tutti noi, insomma, perfino i giornalisti hanno un tratto umano delle volte. Insomma, adesso andiamoci piano. No. Non mi spingerei troppo oltre, insomma. Ecco, sto parlando anche di me, naturalmente, scherzo con Maurizio, siamo stati anche colleghi, quindi. Allora, dicevo, il tratto umano, quando il primario di oncologia ha convocato tutto il personale e non l'aveva mai fatto fino a quel momento per comunicare loro questa cosa di Barbara, ci sono state le reazioni più diverse, sono raccontate nel libro, ma c'è stato il collega, amico, Francesco, la cui prima reazione è stata: ma allora può succedere anche a noi. Allora uno può sorprendersi di questo, ma non deve sorprendere, né si può giudicare un atteggiamento di questo genere. Siamo esseri umani, anche i medici lo sono, anche il personale sanitario, quindi è bello, io credo che sia importante anche indagare questi atteggiamenti, no, dentro questo libro. Allora, velocemente dico cosa c'è nel libro. Intanto il libro apre con la prefazione di Laura Campanello. Io consiglio a tutti caldamente di iniziare la lettura con la prefazione. So che di solito abbiamo voglia di entrare subito nel vivo della lettura del libro, si salta la prefazione, qualche volta non la si legge proprio. No, vi prego, leggete la prefazione prima, perché è proprio un viatico importante la lettura del libro. Laura Campanello è una filosofa che si occupa di fine vita, lei ha scritto diversi libri. Ne cito uno perché mi piace divulgarlo, si intitola Io sono vivo ed è solo l'inizio. Sono libri nei quali parla della morte, ma per parlare della vita. E quindi lei ha accettato di scrivere questa prefazione, noi l'avevamo conosciuta a Rovereto in occasione della presentazione del suo libro, è nata questa collaborazione. Preciso una cosa, questo libro è frutto di volontariato, il ricavato va alla fondazione, ma in questo volontariato, a partire da Barbara e poi il nostro, entrano in ballo anche molti altri personaggi che di fatto hanno accettato gratuitamente di collaborare. Massimo Bernardo è uno di questi, ne parlo dopo, Laura Campanello anche. Allora, non è affatto scontato questo, che degli esperti nazionali accettino questo, mi piace sottolinearlo. Poi la prefazione, allora la prima parte del libro è la storia di Barbara, la storia clinica e umana, quindi scandita, raccontata in forma di diario di viaggio, recupero qualche frase che lei aveva scritto a mo' di diario e poi si racconta il frutto delle nostre conversazioni. Nella seconda parte del libro abbiamo raccolto delle testimonianze. Allora, intanto c'è un'intervista a Barbara, un po' articolata, e poi c'è la testimonianza di Franco. Allora, Franco è il marito di Barbara, siamo diventati molto amici anche di Franco e dei loro due figlioli. Non voglio tirarla tanto per le lunghe perché Franco è qui e quindi sembrerebbe quasi una... Però vi dico solo che leggendo la sua testimonianza e tutta la storia si capisce come sia giusto rapportarsi con una persona cara quando si ammala. Anche lui è stato un generoso perché ha saputo governare la propria comprensibile angoscia, il dolore, anche la paura delle prospettive con questi due figli giovani, eccetera, e ha saputo stare accanto a Barbara aiutandola a realizzare tutto quello che lei voleva realizzare. Dietro questa generosità c'è la filosofia che ispira la Fondazione Hospice, ma sicuramente anche il papavero, e ispira le cure palliative. L'obiettivo è quello di permettere che una persona viva al meglio possibile tutta la vita che rimane. Questo è il concetto. Barbara non è riuscita a fare una cosa, ma solo per le bizze del tempo, voleva lanciarsi col parapendio, perché era una cosa che aveva sempre... Quello non le è riuscito di fare, però troverete qualche accenno nel libro, anche questo vi farà sorridere. Per esempio, a un certo momento ci dice con un sms, sono 3 giorni che sto benone per festeggiare, siamo andati a vedere la Ida a Verona. Ecco, per dirvi, no? Questa era Barbara anche, e questo Franco. Allora, la testimonianza di Franco e poi la testimonianza di questi due colleghi amici, Francesco Valduga e Antonella Ferro, ai quali abbiamo chiesto di parlare non da medici, di dire che cosa accade, certo, a un oncologo quando scopre che una collega amica, cara amica, si ammala di cancro. Questo è. Alla parte delle testimonianze, dunque, in queste conversazioni che abbiamo avuto con Barbara emergevano, si ripetevano alcuni temi chiave, alcune parole chiave. Uno di questi temi era il fattore tempo, per esempio, di cui penso che parlerà dopo Loretta, quindi io non mi dilungo su questo. Un altro tema l'ha citato prima Massimo, era la presa in carico. Insomma, tanti altri temi. Quindi abbiamo deciso, da un lato, di dedicare un piccolo spazio di approfondimento con una serie di schede, insomma, diciamo, per ognuno di questi argomenti, ma poi soprattutto di chiedere a degli esperti, appunto, nazionali, di confrontarsi in una tavola rotonda che abbiamo organizzato ad AFI per consentire a tutti di raggiungere questo punto di ritrovo a porte chiuse e di ragionare a brutto muso sui temi che Barbara ha proposto. Questi esperti, ve li cito perché mi sembra giusto, sono Adriano Paccagnella, che è stato primario di oncologia a Venezia, Massimo Bernardo, che tutti conoscete, Daniele Govi, medico di medicina generale, Anna Maria Marzi, infermiera dirigente e direttrice di una casa hospice, Paolo Dordoni, filosofo, e poi abbiamo anche intervistato Carlo Favaretti, che è manager sanitario, è stato tra l'altro direttore generale dell'azienda sanitaria in Trentino. Perché abbiamo chiesto anche a Favaretti la sua collaborazione? Perché tutta una serie di stimoli che sono usciti da Barbara, dalle conversazioni, dalle riflessioni che abbiamo fatto, eccetera, pongono degli interrogativi: perché non fare questo, perché non fare quello, si potrebbe fare questo, si potrebbe fare quello. Ma soprattutto gli operatori lo sanno, quando tu proponi una cosa poi c'è sempre l'amministratore che ti dice ma non ci sono le risorse. Allora abbiamo chiesto a Carlo Favaretti di dirci se davvero sia proprio così. E lui, non vi dico che cosa dice, risponde alcune cose che sono interessanti. Il libro si conclude con una riflessione ampia, articolata tra etica, cultura e medicina, scritta da Loretta Rocchetti. Mi fermo. Alla quale a questo punto diamo la parola per proseguire il discorso. Allora, io approfondirò, ma proprio brevemente, la seconda parte del libro, cioè la prima parte dove c'è la storia di Barbara, dove ci sono le testimonianze, non so, sì, anche dei colleghi. Ecco, rispetto ai colleghi, visto che prima... Allora, noi tutti operatori sanitari sappiamo che i peggiori pazienti che esistano al mondo sono i medici, gli infermieri, e i peggiori parenti dei malati sono quelli che hanno... appunto una professionalità, e questo è vero, perché a volte noi non riusciamo a renderci conto di quanto l'essere coinvolti emotivamente ti fa vedere le cose non in modo chiaro. Ecco, quello che è successo a Barbara, che era seguita molto bene dai suoi colleghi del reparto dove lei lavorava, a un certo punto ha voluto allontanarsi, ma non perché non fosse curata bene, ma perché lei ha detto: ho visto che i miei colleghi soffrivano per me e quindi ho preferito allontanarmi. Allora, con Barbara noi abbiamo parlato di tutto. Barbara si è proprio esposta su tutti gli argomenti e se voi vedete nel capitolo che è intitolato Per un lessico della malattia, abbiamo parlato della verità e della comunicazione, questo è l'argomento che abbiamo anche poi ripreso nella tavola rotonda, e dei trattamenti non convenzionali. Barbara era un medico che non ha mai usato trattamenti diversi da quelli che lei aveva usato per i suoi pazienti. Abbiamo parlato di sessualità e c'è una frase che mi commuove, se avevo proposto anche di fare un ambulatorio con scritto questo fuori. Ovviamente la malattia cambia tante cose, lei dice, però ti reinnamori del tuo compagno e ritorni alla tenerezza dei primi tempi. Io volevo dire, possiamo fare un ambulatorio con scritto fuori, come reinnamorarsi? Mi è sembrata una cosa straordinaria. La morfina, ne abbiamo già parlato, ha parlato anche dell'eutanasia con molta chiarezza, ha parlato delle cure palliative che per lei sono state la vera scoperta della sua malattia, perché come aveva accennato anche Milena prima, lei ha detto prima no, perché, e poi ha detto ammetto che avevo dei pregiudizi, come oncologo avevo dei pregiudizi sulle cure palliative, e la cosa che lei propone è solo di cambiare nome, dice però non, si potrebbe cambiare nome invece di chiamarle palliative, chiamare qualcosa che richiami meno al significato italiano del termine palliativo. Per quanto riguarda gli argomenti che abbiamo sottoposto agli esperti, tra cui appunto c'era anche Massimo, abbiamo parlato di tempo, di formazione, di terapia e di protocolli, di speranza e poi di economia. Il tempo. Allora, noi sappiamo tutti, lo sappiamo anche per esperienza personale, che il tempo è quanto di più soggettivo, forse dopo il dolore, ma quanto di più soggettivo esista, perché il tempo del malato è diverso da quello del familiare, è diverso da quello dell'operatore, perché il tempo dell'operatore è quello che gli è permesso dall'organizzazione nella quale ha deciso di lavorare. Ci sono diverse accezioni del tempo. A un certo punto, quando è stata fatta la diagnosi, Barbara dice: se ho fortuna vivrò un anno e mezzo, e il marito dice: ogni momento veniva scalato da quel tempo che ci rimaneva, e questo era davvero lacerante. Allora, un anno e mezzo, tot mesi, tot settimane, tot il tempo che è fatto di, le ore sono tutte di 60 minuti, e questo è Cronos. Voi vi ricordate che ha dato il nome al nostro cronometro orologio. Vi ricordate, Cronos era il dio greco che divorava i suoi figli. E questo è il tempo che scandisce la nostra vita e che ovviamente è il tempo dell'organizzazione. L'organizzazione non può avere che questo tempo se vuole funzionare. Però ci sono altri accenni che Barbara fa, ad esempio dopo un incontro con un gastroenterologo lei dice: siamo andati, abbiamo parlato, non mi ha detto niente che io già non sapessi, però ci ha dedicato tutto il tempo di cui avevamo bisogno. E la stessa cosa lei dice delle cure palliative: sono entrate nella nostra famiglia in punta di piedi dedicandoci tutto il tempo di cui avevamo bisogno. Allora quant'è tutto questo tempo? Mezz'ora, un'ora al giorno, un quarto d'ora, quant'è? È tutto il tempo di cui uno ha bisogno, cioè il tempo che è giusto, c'è un tempo per ogni cosa. A volte lei dice, lo dice un paio di volte, avrei bisogno di isolarmi, di stare un po' da sola e da riflettere. Anche questo non è Cronos, questo è il tempo della sorpresa, il tempo. Allora, sono bei discorsi questi, ma il problema che viene fuori poi è come facciamo a rendere compatibile tutto il tempo di cui il paziente ha bisogno con i tempi imposti dall'organizzazione. Non possiamo neanche mandare all'aria l'organizzazione. C'è un modo per far sì che sia possibile per noi oggi non farci divorare da Cronos? Perché questo è il rischio che corriamo. E questa è una delle domande che abbiamo posto ai nostri esperti e poi vedrete come hanno risposto. Poi di formazione abbiamo parlato. Barbara aveva un po' il pallino della formazione. Infatti una delle cose che lei voleva che si riuscisse a mettere in atto era quella di far sì che in oncologia, perché lei lavorava lì, ma entrassero i pazienti esperti per formare gli operatori, cioè delle persone che hanno o superato o stanno vivendo una situazione di malattia, che andassero a formare, assieme a tutti gli altri aspetti, anche gli operatori. Lei non è riuscita a vedere una cosa del genere, anche se si è cominciato a parlare di questo in oncologia. E lei voleva porsi, io ricordo, una lite che ha avuto con Paolo Dordoni, il filosofo, perché lei dice: io voglio andare a fare lezione, no, i pazienti vanno anche protetti, eccetera. Allora lei non ha potuto andare, non avrebbe neanche avuto la possibilità materiale, a dire la verità, a fare questo, però l'ha fatto col libro che ha scritto, cioè lei continua, ha lasciato la sua testimonianza. Allora noi sappiamo che la formazione dei nostri operatori, almeno quelli delle nostre realtà che noi conosciamo, la formazione tecnica è di solito di buon livello e anche ben presidiata, ma la formazione umanistica invece è un po' meno presidiata. Perché? Perché per esempio nel curriculum del medico assolutamente non esiste la formazione umanistica, per cui non c'è, non ti sorge neanche, non c'è. C'è un pochino nel curriculum dell'infermiere, infatti le infermiere di solito sono ritenute molto più capaci di rapportarsi con i pazienti, ma allora anche allora non c'è nel curriculum, allora dobbiamo farlo cammin facendo quando ci accorgiamo che c'è bisogno di questo. Ma cosa succede molto spesso nella realtà delle varie istituzioni? I corsi di aggiornamento che vengono fatti su, che so, l'ultima tecnica di accesso venoso per la vena pedidia destra o sinistra, vengono fatti in orario di lavoro con il CM eccetera. Se invece uno vuole approfondire la conoscenza di sé o il lavoro, questo, ma l'abbiamo proposto, lo dice a un certo punto un esperto, noi lo proponevamo se qualcuno voleva fermarsi dopo lavoro a fare, no, questo è già un messaggio negativo. Allora anche qua abbiamo chiesto come è possibile colmare questa lacuna che c'è rispetto alla formazione, e poi vedrete come hanno risposto. Poi la presa in carico, ne ha già parlato Massimo. Allora Barbara era oncologa, sapeva quello che succedeva, si faceva le terapie e ciò nonostante lei ha detto: io avevo bisogno di qualcuno che si facesse carico di me, nonostante. Quindi pensate, una persona che nulla sa di quello che gli sta capitando. Allora la discussione, io penso che tutti i nostri esperti erano d'accordo che questa è un'esigenza. Chiediamoci chi è la persona che può farsi carico del paziente, ma non il pezzettino. Allora uno dice: beh, durante le terapie oncologiche è l'oncologo, poi chiude l'oncologo, prima dell'oncologo magari c'era, che so, il gastroenterologo, poi chiude quello, poi chiude l'oncologo, poi chiude e riapre magari il palliativista, ma chi è che ti ha in mano sempre dall'inizio alla fine? E su questo sono uscite anche delle ipotesi originali. E poi il discorso delle cure, che questo aprirebbe una discussione, le cure personalizzate o i protocolli. Non so se è venuta una persona, ieri abbiamo fatto una presentazione a Pergine, Valsugana, e una persona che aveva detto che vedeva se veniva, è capitata fuori orario, per cui ha detto: vengo se posso a Bolzano. E lei ha detto una cosa importante: io avevo una mia sorella, non so, ammalata di tumore, e lei continuava a dire: io non sono un protocollo. E io dicevo: non capivo cosa voleva dire. Ho letto il libro e adesso ho capito cosa voleva dire. Beh, quando dicendo: ma io non sono un protocollo, io non capivo, e adesso ho capito. Poi abbiamo parlato di speranza, abbiamo parlato di management sanitario, perché a noi piacerebbe tanto che l'umanità avanzasse per dei pensieri filosofici profondi, per la bellezza, per in realtà quello che mena tutto è l'economia, purtroppo, e quindi dobbiamo in qualche modo tenerne conto, e penso che basta così, insomma, se no. Ma io vorrei adesso sentire qualcuno. Notavo una cosa che avevo già notato un paio d'anni fa, quando Massimo mi fece il grande regalo di chiamarmi a Rovereto, al MART, ad moderare, insomma, ad assistere più che altro a un convegno nel corso del quale delle persone trattavano questo problema sotto vari punti di vista, persino da quello dell'arte, una cosa che non ho mai dimenticato e che mi torna alla mente. Beh, anche allora, come oggi, l'attenzione che c'è in una sala come questa è qualcosa di particolare che non realizziamo. Io vorrei che, se ci sono domande, se ci sono richieste di spiegazione, di approfondimento, adesso saltassero fuori. Si resta un po', sì. È difficile. Non stiamo parlando di bruscolini. Non stiamo parlando di bruscolini, soprattutto stiamo parlandone con un'intensità, con un'umanità grandissima. Scusatemi, io faccio il giornalista, cioè, poca rogna noi. Mi viene da pensare al livello infame, infimo del dibattito che c'è all'esterno in questi giorni su alcuni temi analoghi. Viene proprio da pensare, guardate come potrebbe essere, e invece come è becero quello che c'è fuori, no? Avanti, forza. Se vuoi rispondere, dopo poi lo integriamo. Allora, parto dalle risposte del manager sanitario, perché appunto bisogna poi. Lui dice, lo dico in poche parole, lui dice, nell'attuale organizzazione sanitaria, a prescindere dalle bravure, non sono sotto accusa gli operatori, però ci sono delle prestazioni rutinarie che sono anche inutili, che vengono però fatte perché questa è la routine, questa è la prassi, questa l'ecografia, piuttosto che, non mi riferisco a una situazione particolare, lui citava alcune prestazioni che sono di routine. Queste prestazioni, una volta che si capisce che sono inutili, si potrebbe toglierle a favore quindi di un risparmio di risorse, ma a favore anche di un risparmio di tempo che potrebbe essere redistribuito nella relazione medico-paziente, per esempio. Questo è quello che dice uno dei passaggi dell'intervista a Favaretti, ma è stato anche molto importante quello che ha detto per esempio il dottor Govi, Daniele Govi, nella tavola rotonda che abbiamo fatto. Lui dice: secondo me non è tanto importante quanto tempo, ma quale tempo, la qualità del tempo che si dedica alla relazione con il paziente. Poi facevano il distinguo: un conto è la prima visita dove devi comunicare anche delle cose impegnative, un altro conto sono le visite successive. Allora, che sia un operatore della sua esperienza a dire, dobbiamo anche interrogarci, insomma, no? Sulla qualità del tempo che dedichiamo alla relazione con il paziente, è importante, è significativo, è anche onesto, insomma. Altro accenno che era venuto fuori, la necessità, per esempio, che i vari specialisti siano in collegamento con il medico di base, con il medico di famiglia. Perché questo? Perché è il medico di famiglia che conosce la situazione del paziente di partenza, invece che fare ognuno la propria indagine, eccetera eccetera. Si potrebbe, bisognerebbe che questo collegamento fosse normale tra specialisti, tra medici, il che non avviene, e quindi anche questo permetterebbe di risparmiare tempo per dedicarlo a quegli aspetti anche umanistici di cui parlava anche Lorenzo. Ecco, questi sono stati alcuni accenni che sono emersi nel corso delle riflessioni. Sì. No, io ho visto qualcuno che, secondo me lei è infermiera, dica la verità. No. Qualcuno che diceva, come dire, ma è medico di famiglia, sì. È tutta una... Guardi, se vuole lo dico io, eh. Se c'è qualcuno deve assumersi, comunque, medico di... sarà una situazione di Bolzano, ma io non ho difficoltà a dire, normalmente il rapporto col medico di famiglia, non sono tutti uguali, non bisogna generalizzare, è diventato qualcosa che prescinde totalmente, è una semplice erogatore di prestazioni su richiesta, e non c'è neanche lontanamente da aspettarsi che possa fungere, anche perché qui si è scelto di fare un certo tipo di discorso, i medici hanno un numero di pazienti esorbitante rispetto a quello che secondo me potrebbero e dovrebbero seguire se vogliono fare. Dopodiché si è scelta questa strada qui, ma c'è poco da attendersi, quindi abbastanza duro nel dirlo, ma il discorso che deve cambiare è anche un discorso culturale, il discorso culturale rispetto al ruolo del medico di famiglia, ma non solo al ruolo che gli è dato, ma anche solo al ruolo, perché quando il medico di famiglia va dallo specialista per chiedere qualcosa del suo paziente e lo fa aspettare un'ora, intanto il medico di famiglia è ambulatorio, vuol dire che è considerato poco. Ma comunque, al di là di questo, io ho sempre fatto per scelta il medico di famiglia, e la comunicazione col paziente, il medico di famiglia è privilegiato perché lo conosce per tanti anni. Io ricorderò sempre una signora che tumore al fegato, e quando vado a casa sua lei mi dice: dottoressa, lei prima veniva per la mamma, adesso viene per me. Ce la siamo cavata in 2 secondi, non c'è stato bisogno di dire altro. Cioè, capisci come? Ma perché il tempo è stato dedicato prima. E quindi, comunque sia, che sia il medico di famiglia o che sia un'altra figura, una figura che possa spalmare il tempo durante tutta la... Cioè, lo specialista che non ha mai visto in faccia una persona e gli deve dire: tu hai un tumore, devi fare la chemioterapia, non sarà mai sufficiente il tempo, perché manca tutto il resto. E il fatto comunque di questo, se davvero cominciassimo a lavorare assieme tutte, era quando noi abbiamo chiesto a Barbara: ma perché questo libro, secondo te, a cosa serve fare questo libro? Lei dice: vorrei che non solo i medici ma anche chi occupa posti di responsabilità nella gestione della sanità pubblica comprendesse che la qualità delle prestazioni è più importante del numero delle stesse, perché vorrei che medici di base, specialisti, medici palliativisti superassero divisioni, incomprensioni, gelosie reciproche, creando una rete a maglie fisse attorno al malato oncologico, capace di avvolgerlo durante tutto il suo percorso. Voi capite che questo è un aspetto culturale, ecco, e dobbiamo tutti, ecco, e secondo me qua va coltivato ovviamente da parte della categoria medica, che dovrebbe rendersi conto che questa, ecco, ma anche da parte dei diciamo dei pazienti, scusatemi se lo dico, ma credo che è importante, che non resti solo una lamentela e basta, che non fa che aumentare il disagio e non cambia niente, che ci si metta, ci si confronti, sapendo che tu sei una persona, dall'altra parte hai altre persone, e quindi confrontiamoci su cosa può, come possiamo fare, senza essere sempre lì ad accusare e basta, cioè voglio dire... Se posso aggiungere, no? Non demonizzerei la categoria del medico di famiglia o medico di medicina generale, il problema riguarda tutti i medici, no? Riguarda tutti. Noi oggi, come si diceva prima, non è il tempo che dedichiamo, ma è che cosa facciamo in quel tempo, no? La qualità che diamo è una cosa fondamentale che si chiama comunicazione. Barbara chiedeva, no, di avere, dice, il gastroenterologo che non mi ha detto niente che non sapessi, però mi ha ascoltato. Allora, e qui entriamo nell'ambito della formazione. Il medico non viene formato a comunicare, eppure si trova a dover comunicare ogni giorno notizie molto spesso poco piacevoli. Allora, farlo è faticoso, è doloroso anche per chi lo deve fare. Allora si cerca di tirarsi fuori da questa situazione, e il tempo che ti impone l'azienda, se non ho timore di quello, diventa un alibi per dire: non ho tempo per farlo perché l'azienda mi costringe, e siamo diventati sostanzialmente complici di questo sistema, no? Allora dobbiamo incominciare anche noi, no? E questa è un'occasione a riflettere se vogliamo continuare a non dedicare tempo, se vogliamo continuare a comunicare in un modo pessimo, dove le parole e il tempo, che sono la parte fondamentale del rapporto di cura, possono fare benissimo, ma se usati male possono fare dei danni drammatici. Sì, va bene, d'accordo, ci sarà, io non demonizzo nessuno, dico che però a monte c'è un'organizzazione tale che praticamente mette le persone in condizioni anche di nel senso che noi tutti sappiamo che ci sono cosiddetti medici alternativi o terapeuti alternativi, la cui fortuna incredibile è dovuta, l'abbiamo detto tante volte, non tanto al fatto di quella roba che dispensano, ma al fatto che ascoltano, perché si pigliano il tempo di mettersi davanti a una persona. Forse ce l'hanno, io non voglio demonizzare, voglio dire che nel momento in cui tu hai un ambulatorio con 40 persone fuori e le devi smaltire in mezza giornata, hai voglia a voler, anche a saper comunicare, hai 40 persone fuori, bisogna che la struttura. Il discorso delle cure palliative, anche questo l'abbiamo detto tante volte, io non so, perlomeno lo so poco, come vada in provincia di Trento, in provincia di Bolzano, è una fatica improba, e tu ne sai qualcosa, riuscire a far passare il concetto, per esempio, di passare non solo alla centralizzazione, alla non delega al privato di queste cose e al passaggio sul territorio di un sistema di cure a domiciliari che metta le persone in grado di ricevere. Eppure siamo una provincia che non dovrebbe avere questi problemi, siamo una provincia dove si spendono fior di milioni e milioni e milioni per iniziative, per cose, eppure questa è una questione di cultura, ma è di una difficoltà enorme. Andare avanti e fare un passettino così piccolo sembra quasi impossibile da fare e da capire in una realtà dove non ci sono gli squilibri, i buchi nel bilancio, le cose che ci sono altrove, dove magari invece qualche passo in più è stato fatto, perché così funziona la storia. Ancora? C'è una domanda qua. Sì, vado. Sì, vorrei prendere quest'ultima tematica sui medici in padre. Scusa Ubaldo, sentite dietro? No. Vabbè, volevo fare la domanda sui medici di base, vai. E allora vorrei ritornare sull'argomento medici di base. Sì. E perché mi viene in mente un episodio. Io ho un medico di base molto bravo con il quale ci parliamo, che è un paradosso, quindi lui ha l'ambulatorio completamente barricato. Ogni volta che io devo recarmi per prendere una ricetta, gli chiedo se questa ricetta può lasciarmela alla famiglia accanto. C'è questa legge che non si possono deporre le ricette in famiglia. Allora, pensando alla storia di Barbara, mi viene in mente un concetto che io ho preso dall'insegnamento buddista, che è questo. Culturalmente, in questa società, la malattia non è mai vista come una opportunità, come una grande occasione come quella che ha avuto Barbara, no? E credo che in tutti questi anni mi ho imparato questo, che ciascun essere umano ha una missione. Sicuramente la missione di questa donna, a mio avviso, è stata quella di aprire uno e mille interrogativi, no? Sulla sanità. Questo così. E la seconda cosa che volevo chiedere, fa parte di una cosa che io ho vissuto, non collegato al concetto di malattia, c'è il concetto di morte. Mi viene in mente quando 4 mesi fa ho perso mio padre. Io avevo culturalmente anche questa concezione negativa della morte, avevo il terrore della morte, no? Invece quando è successo, quando ho vissuto questa cosa, e oggi posso dire che sento molto, molto vicino la presenza di mio padre, no? Il quale mi ha trasmesso tante cose, però, cioè, voglio dire, diciamo tutti teoricamente che la vita ha un inizio e una fine, no? Anche qui dico che culturalmente non ci siamo. Noi prendiamo male la morte. In Africa la morte viene festeggiata, qui da noi viene sempre considerato come un momento triste, doloroso, indipendentemente dalle cause che ti portano, no? Ecco, volevo chiedere al dottor Bernardo, nella mia esperienza, nella mia vita, ho conosciuto moltissimi medici, no? Allora, volevo chiedere, Barbara a un certo punto dice, cioè, coglie la sua malattia come occasione di analisi collettiva, no? Ma io penso che, cioè, non è che un medico per approcciarsi, come diceva lei, attraverso un livello umanistico, debba passare attraverso il dolore della malattia. C'è già la formazione culturale di essere medico, dovrebbe portare questo, cioè, dovrebbe portare a un accettamento di questo tipo. Non è così, perché oggi la formazione è quasi totalmente improntata sugli aspetti tecnici della professione, e tutto il curriculum formativo del medico non si parla, o si parla molto poco di etica, non si parla di temi legati appunto alla comunicazione, non si parla del disagio psicologico del paziente, altri temi importanti come le problematiche sociali e spirituali non sono neppure considerati. Quindi o uno ha una sua sensibilità, una sua voglia di andare a approfondire questi argomenti, oppure tutta la sua attività professionale sarà sempre incentrata sul fare, perché questo ci siamo formati, no? E formati a fare, oltretutto è molto più semplice che fermarsi a riflettere se quello che sto facendo ha poi una rilevanza, un'utilità per il paziente o meno. Lo faccio perché la tecnologia me lo mette a disposizione. E la malattia, perdonami, come opportunità, credo che questo sia un messaggio molto, molto forte che esce da quello che Barbara ci ha lasciato, no? E quello che poi ci raccontano moltissimi pazienti ogni giorno. Trovare anche all'interno di una situazione difficile, drammatica, come quella della malattia inguaribile, l'opportunità per comunque riamare, no? Dice la vita e le persone che si fanno intorno. Scusa, solo No. Chiedo scusa, aggiungo solo una cosa su questo concetto di opportunità, perché le cure palliative rappresentano spesso un'opportunità importante, non solo per le ragioni dette prima, eccetera, e questo lo posso dire per aver registrato l'esperienza di una persona cara che nell'ultimo mese della propria vita è stata in hospice e ha conosciuto le cure palliative. In quel mese di vita questa persona ha scoperto delle cose, cioè questa persona non aveva l'angoscia della morte, l'aveva già elaborata questa cosa, aspettava, però temeva per la propria dignità e noi amiche garantivamo per lei, e temeva il dolore. Una volta che è stata affrancata dal dolore, in questo mese, sempre un tempo brevissimo a proposito del valore del tempo, ma in realtà è stato un tempo importantissimo nella sua vita, ha scoperto delle cose anche di sé che non conosceva, che non sapeva, ha espresso, per dire, anche una gestualità fisica. Lei era una persona tutta contratta per ragioni sue, eccetera, ci prendeva per mano, accarezzava una mano, sorrideva, ascoltava, cioè. E lei stessa ci ha detto: per me questa vicenda qua in hospice è una grandissima opportunità. Ecco, ho voluto riprendere la parola opportunità per testimoniare che anche le cure palliative lo sono, e non solo perché affrancano dal dolore. Grazie, perché questo, scusatemi, allora hai detto benissimo delle cure palliative, non l'ho detto io, dico sempre quello che difendo le cure palliative. Cure palliative vuol dire non accompagnare una persona alla morte, ma vuol dire aiutare una persona a vivere nel modo migliore che rimane, no? E questa è l'opportunità che danno le cure palliative. Ecco perché non ha senso pensare alle cure palliative come alle cure date alla fine della vita. La cura palliativa deve iniziare il più precocemente possibile perché abbia un suo senso, No, altrimenti non serve niente. Sì, ecco, uno dei lavori che abbiamo cominciato a fare con Barbara era proprio questo, delle cosiddette simultaneous care, cioè di introdurre in oncologia, una volta in settimana a Trento va il medico palliativista, in oncologia, ma non... E questa è una filosofia che comincia a prendere piede. Sarebbe bene che lo prendesse rapidamente. Guarda, ci giuravo, ho detto che non generalizzavo, ho detto allora, voglio focalizzare il discorso su questo aspetto che non fa parte della giornata. Dico solo brevemente che permetto di sentire quello che ha affermato lei, in quanto a me va proprio il contrario, cioè quello di dover frenare le persone da un'eccessiva richiesta di ricorso agli specialisti, spesso per motivazioni inesistenti, e al contrario vuole perdere molto tempo, che non ha tempo credo di spendere l'ospedale, devo spiegare ai pazienti con in mano la lettera di missione quello che loro in effetti hanno, quello che sono le prospettive, perché nessuno si è preso il tempo di spiegare. Comunque vediamo questa parentesi, se non avete solo una parola di esterno. No, il discorso volevo agganciarmi a quello che è stato affermato prima, che altre persone, altri oncologi si sono trovate in una situazione di vapa, ma non tutte hanno reagito allo stesso modo. Ed è penso perfettamente comprensibile, perché la regola penso che sia che quando un medico ha la consapevolezza di una diagnosi, tra virgolette, infausta, forse è più portato a lasciarsi andare alla disperazione più che reagire come ha fatto questa collega. E quindi il fatto di conoscere le diagnosi, conoscere l'evoluzione naturale della malattia sicuramente non è un aiuto, ma è un grosso aiuto. Spesso sì, è un grosso aiuto. Quindi c'è una problematica poi anche di tipo psicologico, depressivo, sicuramente da affrontare, forse più intensa che un paziente malato. Mi fa pensare a quanto sia contraddittorio l'atteggiamento di ciascuno di noi, no? Perché, per esempio, per dire, io sono una che al mio medico direi adesso mi dici tutto esattamente, non girarmela intorno, dimmi esattamente come stanno le cose. Adesso lo dico così. Poi quando mi dovessi trovare lì, non so se sarei proprio così coraggiosa, quindi magari anche se lui, magari declinerei teoricamente, no, intellettualmente questo concetto acquisito a livello teorico, ma poi magari mi piacerebbe tutto sommato che una mezza bugia me la dicesse, o magari non lo so, che mi lasciasse un margine per la speranza. Quindi per Barbara sicuramente è stata pesante la cosa. Proprio meglio non sapere. Sono d'accordo. Per questo è stata tanto più coraggiosa. Prego. Io volevo sottolineare un punto che penso che sia importante, dell'aspetto psicologico, dell'aiuto che dovrebbe essere dato non solo al paziente, ma anche ai familiari che seguono. Perché noi facciamo servizio in oncologia e sappiamo che spesso i problemi non li abbiamo con i pazienti, li abbiamo con il marito, la moglie, i figli, eccetera. Quindi è un aspetto che dovrebbe essere affrontato anche. L'importante è che il paziente abbia un sostegno, ma se vicino al paziente durante la sua giornata non ha vicino qualcuno che lo può sostenere e che più ci tratta di lui, è un problema, un grosso problema. E in questo senso, se posso, inviterei Loretta a raccontare uno degli episodi della sua lunga carriera di medico serio, quello che mi hai raccontato, cioè il tuo paziente che dimagriva, la moglie che gli stringeva gli abiti. Ah, sì. Raccontalo, perché è significativo. Sì, questo è un mio paziente che di carattere, io ho fatto il medico di famiglia, perché conoscevo bene anche questa famiglia. Lui aveva un carattere un po' passivo, diciamo, quella che comandava in casa era la moglie, e lui si adattava un po' bevicchiando anche ogni tanto, comunque era una persona mite e lasciava fare la moglie. A un certo punto si ammala e tumore al pancreas. Allora la moglie dice, per carità, non gli va detto niente, e fa quadrato, cioè lei è sempre lì col marito. Per io andavo in casa a trovarlo, a seguirlo, a visitarlo, e sentivo che lui non era del tutto sereno, però non si poteva parlare, perché la moglie diceva, è arrivata al punto di stringergli i vestiti perché lui non si rendesse conto di quanto mi faceva, mi sembrava Penelo la notte, no, stringe i vestiti, ecco, per proteggerlo. Allora un giorno lui mi dice, ma dottoressa, voi lo sapete cos'ho? E io ho detto, sì, lo sappiamo cos'ha, e basta, non voglio, volevo solo sapere che sappiate quello che ho. Da quel momento lui si è messo sereno e tranquillo, e vi dirò che anche quando andavo a visitarlo e magari parlavo, perché intanto che visitavo parlavo, senti qua, si sente il suo pancreas, si è ingrossato un po', cioè, e lui era sereno e tranquillo, ma non ha voluto, cioè, mi basta sapere che sappiate quello che fa. Che no. Sì, ecco. Sì. Io credo che... è stato. Altre... E non protocolli che non servono a niente, beh, non credo che nessuno abbia detto, che abbia detto questo. Ah, lo dice lei, sì. No, scusi, non avevo capito. Qualcuno faccia da portavoce. Ecco, sì. I protocolli, che sono frutto di una seria ricerca per poter dire sì, va bene, va male, cosa va, cosa non va, sono fatti su un tipo di persona, che è quello che è ammesso alla sperimentazione, che è regolamentato, cioè dicono, è ammesso alla sperimentazione chi è in queste condizioni, non chi è diversa, perché altrimenti i risultati sono falsati. È ovvio che poi quel paziente che ne ha bisogno dopo non è quello che è stato ammesso alla sperimentazione, per cui davvero, cioè, i protocolli, è la conclusione a cui sono arrivati anche i nostri, i protocolli vanno bene, nel senso che noi sappiamo da dove partiamo, e poi però bisogna poterli adattare alle persone, ecco. Per poter fare questo però ci vuole molto ascolto, molta pazienza, molto tempo, molta disponibilità anche a rischiare, a dire la verità, perché a volte lo dice l'oncologo che abbiamo, dice, a volte applichi protocolli anche per non rischiare, perché se poi ti va male almeno hai applicato il protocollo, perché oggi dobbiamo guardarci un po'. Allora, e poi riportiamo tutto al discorso della franchezza e della relazione tra medico e paziente. Io credo che se c'è una buona relazione tra medico e paziente può anche andare male qualcosa, perché nessuno si aspetta che il medico sia Dio o il mago Merlino, che se c'è un buon rapporto, se invece il medico non ti ascolta, va male qualcosa di quello che ti fa e ti viene da dire è colpa sua, poi magari scopri che non è colpa sua, però è colpa sua perché non ti ha ascoltato, e quindi questa è tutto un cammino, vedete che è come una cosa che si rincorre, no? Il tempo, ma davvero ci manca il tempo, davvero siamo succubi di Cronos che finisce per mangiarci tutti, oppure come suggerisce Pavaretti, liberando, cioè facendo anche... un'altra cosa che lui, di cui si è parlato con l'amministratore, è quello dello spazio per poter parlare liberamente col paziente. A volte vengono date notizie brutte, notizie in una stanza più letti, non c'è posto, magari andiamo nello sgabuzzino dell'infermiere che è piccolo così. È capitato anche a me a Trento recentemente di andare con l'oncologo e una mia amica paziente, nello sgabuzzino dell'infermiera ci stavamo giusto in piedi perché non c'è il posto. Allora anche qua c'è una diversa, per poterlo fare, una diversa concezione anche degli spazi di cura. Allora lo dice Pavaretti, non lo dico io, i manager che vogliono il mega, perché il mega ufficio, il mega ambulatorio personale per il primario c'è, non c'è lo spazio per parlare. E quindi, come vedete, è tutta una cosa di cultura. Se vogliamo fare qualche passettino, non dobbiamo, tra l'altro, appunto, lavorare l'un contro l'altro armati, ma l'un contro l'altro alleati, sapendo dove e vogliamo andare. Io faccio, stasera faccio la parte di quello che butta lì le provocazioni, si tira addosso anche. Però, se vogliamo, per esempio, fare questo ragionamento che io ho sentito fare da Massimo da un po' di tempo, e che trovo stupendo, cioè che le cure palliative devono cominciare nel momento stesso in cui c'è la diagnosi. Bisogna che queste cure palliative entrino a pieno diritto nella struttura ospedaliera vera e propria. Ecco, non è che ancora da parte della classe medica, del medico, queste cure palliative sono viste come l'emblema della sconfitta. Cioè, noi le cure palliative, no, perché le cure palliative vuol dire ammettere che abbiamo perso. Cioè, quanto c'è da cambiare? Cioè, è facile portarle all'interno della struttura, le cure palliativista che sta assieme all'oncologo? Non... Allora, io vi posso dire che mi sto occupando di cure palliative da moltissimi anni. I primi anni in cui io mi occupavo di cure palliative, per i miei pazienti come medico di famiglia, sono andata a fare un corso in Canada, ecco. Allora, in quegli anni i medici, i palliativisti erano considerati ancora meno che i medici. I medici di famiglia sono considerati lo zerbino sul quale la classe medica, dove il medico più lodato, una volta era quello che faceva trapianti, adesso è quello che fa la terapia genica, no? Questo è il top. Ecco, il medico di famiglia era lo zerbino. Il palliativista era, se non così, quasi... ma davvero erano considerati, ecco, quando è che è cambiata un po' la cosa? Quando l'allora ministro della sanità Rosi Bindi, credendo nelle cure domiciliari e nelle cure palliative, ha dato dei fondi a tutte le province, ha detto con questi fondi instaurate le cure palliative agli occhi. Ecco che allora anche gente che prima diceva i palliativisti si è riscoperta palliativista e qua è cominciato davvero, è cominciato a muoversi qualcosa, partendo dall'economia. Adesso io non so se è perché i medici vivono ancora la morte come una sconfitta, non so se è ancora così, ma si fa fatica, ma non più come una volta, si comincia, no. Ma perché? Forse non perché i medici hanno cominciato a pensare che non è una sconfitta, non lo so, può darsi, ma perché la gente ha cominciato a pensare che forse è meglio vivere fino in fondo. E quindi anche il discorso, per esempio, del medico, delle cosiddette simultaneous care, che vuol dire in italiano pure simultaneo, cioè assieme, però fa più figo dire simultaneous care, ecco, che era un discorso che portavano avanti i palliativisti da tanto tempo, che dicevano le cure palliative cominciano dall'inizio, perché nel momento stesso della diagnosi di un tumore, parliamo di tumore ma può essere qualsiasi malattia, ecco che il paziente comincia subito ad aver bisogno non solo della terapia, del farmaco, del miglior protocollo del mondo, ma anche di un sostegno, di una terapia dei sintomi. Ecco, adesso si comincia a fare qualcosa anche perché finalmente l'hanno capito gli oncologi e l'anno scorso il congresso nazionale dell'IOM, associazione, hanno parlato proprio delle simultanee care. Ci sono ancora resistenze, però si comincia un po'. Cambiamenti culturali, una volta dicevano che duravano una generazione, adesso mi sembra che durano di più, come l'adolescenza che non finisce più, e quindi anche, non lo so. Insomma, comunque, di questi retaggi culturali di cui si parla, fa parte anche l'idea che il dolore sia sia espiazione, dire, giusta espiazione, sia un castigo che del rispetto totale delle condizioni di ciascuno, ma col cavolo che bisogna soffrire, che bisogna provare dolore per forza, bisogna ribaltarla questa logica, insomma, e quindi prego. E nella realtà ospedaliera che possibilità ha il paziente di chiedere le cure palliative durante, cioè viene ascoltato? È un suo diritto. Anche per... È un suo diritto. È un suo diritto. Riconosciuto da, da una legge dello Stato. Sì. Legge 38 del 2010, l'unica legge che nella storia della Repubblica Italiana è stata votata all'unanimità dal Parlamento. Paura. L'unica, e che all'articolo 15 paura, sono un diritto per tutti i cittadini. Allora, il paziente che viene visitato da, in ogni visita da un medico diverso, e quel medico deve, dovrebbe leggersi tutta la partita della, allora, a parte il tempo che si perde, perché il medico non c'è, certo. Perché non il paziente si è seguito da un medico anche in ospedale? Ma allora io vi dico la realtà di Trento, perché questa di Bolzano non la conosco, è la realtà dell'oncologia di Trento, anche l'oncologia di Trento, ma anche negli altri reparti. Chi te tocca tocca, e avanti questo passo. I pazienti si lamentano, a Bolzano no. Allora è seguito sempre dallo stesso medico a Bolzano. Comunque a Trento questa cosa, della quale i pazienti si lamentano molto e da tempo e non è mai stata, adesso ce l'ha detto Carlo Tenni l'altro giorno, che la consulta della salute che è fatta da tutte le associazioni dei volontari, le associazioni volontarie che vanno si è impuntata e ha chiesto all'assessore, pare che l'assessore abbia capito che devono cambiare. Ecco, per esempio qua, come lei dice, ogni volta l'oncologo diverso deve leggersi la cartella, poi quando capita di dire ma chi è che ha prescritto questa terapia? No, ecco, capita. Si è sempre fatto così e si è sempre perso tempo, effettivamente. Si può liberare il tempo. A Bolzano, per quanto riguarda l'oncologia, il paziente viene preso in carico da un medico, insomma, è questo medico che è il manager, no? Cioè gestisce la terapia e la storia di questo paziente. Vero è che invece nei reparti, negli altri reparti, per motivi organizzativi c'è un turnover molto frequente dei medici, per cui tu rischi che di settimana in settimana ti veda un diverso. Quindi questo è sicuramente un problema grave. Il diritto che il paziente ha di chiedere assolutamente, assolutamente. Ed è un diritto che nasce da una richiesta dei cittadini, perché questa legge è stata approvata non perché la Montenegro è nata proprio dalla base, sì, e non dimentichiamo che qualche anno fa, no, poi, visti i ritardi a cui faceva riferimento Maurizio Ferrandi, nell'applicazione a livello locale della legge, che la legge del 2010 prevedeva che ci fosse un recepimento a livello locale di quanto previsto dalla legge, siamo nel 2015 e a livello della nostra provincia ancora tutto tace. In realtà un disegno per come realizzare una rete delle cure palliative è fatto insieme ai colleghi di Trento, se il Trentino è stato già approvato con delibera provinciale, qui a Bolzano, pur essendo tutto pronto, stiamo ancora aspettando. L'assessore ha già promesso che, insomma, visto che è passato un anno e ancora non si è mosso nulla, ha promesso che nell'arco dei prossimi due mesi ci dovrebbe arrivare. Insomma, speriamo, attendiamo con fiducia. Altro non possiamo fare. Bene, io direi che a questo punto, se non ci sono altre domande, direi di chiudere. Una domanda io. Sì, prego. Che questo libro viene calzato dal fatto che la dottoressa Barbara era curata dai suoi colleghi, quindi no. Questo libro viene calzato dai suoi colleghi e quindi viene curata meglio. No, ma anche perché Barbara, come abbiamo già detto, si è rivolta anche ad altri, per esempio a Verona, a Genova, ad altri specialisti, è stato detto anche prima, perché si è resa conto che i suoi colleghi erano troppo coinvolti, soffrivano troppo, e quindi ha fatto questa scelta d'accordo con loro, peraltro. E quindi no, direi di no, se lei leggerà il libro credo che questo emerga anche in maniera molto netta. La lucidità con la quale Barbara, che era poi la sua formazione scientifica, con la quale Barbara ha percorso tutto il cammino da oncologa al paziente, no, non si è verificata, non si è, no, no, certo, ma no, non è. Bene, una cosa che posso dire, non esiste che un medico venga curato meglio di un paziente che non è medico. Veniamo curati tutti allo stesso modo. C'è un rischio per chi è medico di essere curato troppo, perché i colleghi sono sempre portati, visto che è medico, a fare a volte o a cadere nell'ostinazione, no? Nel cercare di fare di più, e quello può diventare paradossalmente un grosso rischio. Quindi credo come che un VIP. Il medico cura forse più rischi che ricavare benefici dalla sua posizione. Bene. Ah. No, prego. Sicura che comunque è chi curato, no? Per cui chi ti passano di più una profonda per il nostro genetico di mentale, le rosse, le volontà, eccetera. Ma mi domando, la tuo vissuto di Barbara rispetto a questo, se l'ha citato, se l'ha visto bene, male, se è stato un equipo, se è stata solo la figura del tutto, membri dell'equipo, come ha vissuto il lavoro di chi, se l'ha vissuto o se l'ha citato. Ma su di sé, per la sua vicenda oncologica, puoi rispondere tu o rispondo io? Allora, lei non ha mai parlato dell'equipe, lei ha sempre parlato dei colleghi, inteso come colleghi. Barbara, l'unica cosa della quale ha parlato da questo punto di vista è il suo legame con il lavoro, cioè lei avrebbe voluto lavorare fino all'ultimo perché per questo suo legame con il lavoro. A un certo momento però non era più possibile, per esempio la relazione con i pazienti non era più possibile perché la sua stessa missione, quando lei doveva comunicare al paziente una diagnosi severa o così, non ce la faceva ultimamente. Quindi via via il suo rapporto di lavoro è cambiato all'interno del reparto e della struttura. Poi si è trasferita anche a Rovereto per essere più vicina a casa, poi andava quando le era possibile, finché a un certo momento ha deciso di chiudere col lavoro. Quindi lei ha parlato del reparto solo in questi termini, riferendoci però che prima della malattia loro discutevano sempre, ragionavano sempre, erano un'equipe effettivamente. Poi non ha detto nello specifico se si è sentita parte dell'equipe oppure no, forse perché viveva la condizione di paziente, che è una cosa diversa dall'essere componente. Posso dire ancora questo, del rapporto per esempio con altri specialisti a Genova, a Verona, eccetera, dove è andata, a un certo momento il guru, come l'abbiamo chiamato, il guru di Genova, che Barbara aveva già conosciuto per altri suoi pazienti, che stimava molto, lei assieme a Franco sono andati al consulto con questo guru che l'aveva già vista in precedenza, tornavano da una breve vacanza, Barbara era bella bronzata e così, e questo medico le dice: ma ti trovo benissimo, e quindi lei: che benissimo, io sto male, no? La mia situazione è questa. E lui le dice: però non si direbbe così. Poi nota l'addome gonfio, eccetera, e dice: questo addome non mi piace, te lo sto dicendo, fa male, ho questo. E allora la manda a fare un controllo, adesso non ricordo il passato, dal chirurgo. Le dice tra l'altro: bisogna sentirsi con il chirurgo. Faccio una piccola parentesi, Barbara ha sempre detto: io non voglio fare la stomia, la colostomia, non la farò mai, alla fine l'ha fatta, quindi anche questo è. Chiusa parentesi, il guru le dice: bisogna parlare col chirurgo, parla tu col chirurgo, dice a Barbara. E lei dice, però gli dice, parla col chirurgo, però dimmi che stai male, perché sennò non si capisce. Barbara annotava questo proposito, diceva, ma come parlo io col chirurgo? Perché devo parlare io col chirurgo? Voglio qualcuno che si prenda, che mi prenda il carico. Ecco, questi sono gli accenni che ha fatto il collegamento da paziente con il medico, però non ha mai parlato del lavoro d'equipe. Bene, io direi di ringraziare, ringraziare prima di tutto voi per l'attenzione e per direi l'empatia con cui avete seguito questa cosa. Ovviamente ringrazio Massimo Bernardo e le due autrici, e l'unica raccomandazione adesso è di andare là, mi metto in fila anch'io, compriamo il libro, ce lo leggiamo e lo facciamo leggere e cerchiamo un pochino tutti insieme di far passare questo messaggio, di far crescere questa cultura collettiva, perché è solo così che potremo vincere le resistenze nostre interne e quelle esterne che ancora si oppongono alla realizzazione di questi progetti e di queste cose. Grazie a tutti. Grazie.